9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. No safety, no surprise, the end. Lo sapete che noi cominciamo con questa canzone di End of the Doors da un po' di tempo, perché è solo il segnale che vogliamo darvi che questa canzone, che steve al grandissimo nel 1966 Morrison, che scrisse pensando a una canzone in cui dare l'idea della convulsione, della confusione in cui stava la cultura, la civiltà occidentale, la usiamo per farvi capire che fino a che non sarà dissipato il timore, il terrore dei mercati sulla tenuta dell'euro, bisogna che le classi dirigenti, i politici, gli economisti, gli accademici, tutte le persone di responsabilità siano ben consapevoli del rischio a cui esponiamo il progetto che i nostri padri ci hanno consegnato, che era figlio delle stragi, del milione di morti che nel secolo scorso l'Europa ha inflitto al mondo. Tenere in piedi l'euro edificio è qualche cosa che implica una autocritica sugli errori di questi anni, ma chiede a tutti, e lo chiede oramai in una data, l'Euroconsiglio del 9 dicembre, decisioni adeguate a impedire che la storia vada indietro e che ciascuno in Europa, sia i paesi che sono stati virtuosi nella finanza pubblica e produttivi nell'economia privata, sia quelli come noi che invece non lo sono stati, a non credere che separati si stia meglio. Lo pensano in molti, ma in un mondo globalizzato su tre grandi macro aree, chi abbandona il progetto dell'euro potrà illudersi, ma diventa un nano, un microbo. E questo vale anche per un paese grande come la Germania. Noi oggi abbiamo un ospite di eccezione che vi presento tra poco, un ospite di eccezione perché è un leader di una formazione politica che anni fa ha rotto con il centrodestra, che non ha mai usato toni estremi però per giudicare gli sviluppi politici in corso, che si è fatto contare ripetutamente in elezioni politiche e amministrative in una posizione scomoda, visto che con l'attuale legge elettorale farsi contare in una terza posizione sapete a che rischi espone, e che in attesa si è messo lì, ha di volta in volta detto dei sì, detto dei no, ha rivendicato la propria storia, è un cattolico impegnato in politica e che è stato tra i primi a sostenere la necessità di superare il governo precedente di fronte al bilancio che aveva e la perdita di credibilità che aveva in Europa, ed è un buon sostenitore di questo governo di emergenza del professor Monti, di cui ieri abbiamo appreso nel report della Commissione Europea all'Ecofin proprio di ieri il nuovo aggiornamento dei compiti a casa che ci siamo impegnati a fare, tra cui anche le pensioni che trovate oggi sui giornali. Ma insomma, io invito tutti a leggersi le 8 pagine più 8 pagine di tabelle del report della Commissione Europea. Ecco, fin di ieri c'è scritto tutto quello che dobbiamo fare punto per punto. Io mi auguro che la politica sappia che non ha un grande margine di invenzione per dire no. Chi rivendica la sovranità nazionale, e lo capisco, e rivendica l'autonomia dei partiti e del Parlamento eccetera eccetera, non può e non deve chiedere a quel punto la BCE come la Fed. Se vogliamo una Banca Centrale Europea prestatrice di ultima istanza, noi dobbiamo fare dei passi indietro rispetto alle sovranità nazionali, ai riti dei parlamenti, e accettare procedure coordinate di bilancio e impegnativamente predefinite e controllate prima di adottarle, perché se vogliamo una banca centrale come la Fed, cioè che monetizzi il debito, allora dobbiamo fare come negli Stati Uniti, dove infatti per la maggioranza degli stati dell'Unione non è provvista la possibilità di andare in deficit e in debito, e quando alcuni invece, per i quali è prevista, perché non se la sono messa in Costituzione, ci vanno, beh, si lasciano anche fallire, ma non interviene a quel punto il torco monetario della Fed. Troppo comodo volere la banca centrale all'americana e continuare poi a spendere all'italiana, non vi pare? Allora, prima di passare la parola al nostro ospite, rapidissima, come di consueto, rassegna stampa europea delle vicende che riguardano tutti noi e che non trovate sui giornali italiani. È interessantissimo sul Financial Times Deutschland il report l'intervento tenuto ieri dal cancelliere tedesco Angela Merkel a porte chiuse al Bundestag con i deputati del suo partito, e se lo sfogliato lo vedete anche sulle edizioni online, le parole con cui il cancelliere tedesco e il ministro delle finanze Schäuble escludono tassativamente ogni scambio in vista del 9 dicembre tra modifica dei trattati con procedure più rigorose per l'adozione dei bilanci nei singoli paesi membri ed Eurobond, l'esclusione di questo scambio è tassativo, no e poi no, non avverrà il 9 dicembre, il 9 dicembre questo. Sulla posizione francese l'altro invece riepilogata sull'Esecò testimonia che l'Eliseo continua a insistere esattamente invece su questo scambio, e domani il presidente francese Sarkozy è previsto che faccia un grande discorso sull'Europa in vista del vertice del 9 dicembre, ma non potrà annunciare l'accordo con i tedeschi, e su questo su Le Monde hanno Le Parmentier, che è uno dei colleghi che scrivono il blog sull'Eliseo che a me piace di più seguire francamente perché è molto sapido, ci sono delle notizie che non si trovano sui giornali, riferisce che le divergenze rimangono molto duro, Sarkozy è molto contrariato e si lascia anche andare riservatamente a dei giudizi durissimi sulla cancelliera tedesca. L'Irlanda ha deciso di, dice l'Irish Independent, ha deciso di mettere una tassa aggiuntiva del 20% in più su i dirigenti pubblici in pensione, una specie di maxi contributo di solidarietà, e invece è divertente anche seguire, purtroppo un po' raccapricciante, ma anche divertente seguire sui giornali francesi e tedeschi il grande braccio di ferro che è in corso per la sostituzione dell'italiano Bismaghi nel board della BCE, su chi debba ricoprire la carica di chief economist alla Banca Centrale Europea, perché mentre i tedeschi consideravano scontato che fosse Asmussen il sostituto di Jürgen Stark, che si è dimesso contrario all'idea dell'acquisto dei titoli italiani, a fare chief economist della Banca Centrale Europea, il candidato francese alla successione di Bismaghi, Curé, ha immediatamente incorporato la stessa attesa. Allora, se voi leggete giornali oggi come per esempio sulla Frankfurter Allgemein Heike Goebel, oppure se leggete sull'Handelsblatt Dirk Heilmann, trovate delle constatazioni esplicite che dicono come chiedono che la Germania continui a credere nel progetto europeo e poi non ci vogliono dare chief economist della BCE. Allora, se siamo al punto che la Germania deve credere all'euro e alla BCE solo se ha il chief economist, capite che naturalmente vuol dire che è l'esatto opposto, che i tedeschi non si fidano e che quindi non sono grandi tempi per scommettere sull'euro, e quindi non prendiamocela poi se i mercati continuano a scommettere contro. Come avrete capito, fine della rassegna stampa di oggi europea, il nostro ospite è Pier Ferdinando Casini, che io ringrazio per essere qui e mi scuso se l'ho tenuto al telefono per sentire questi sviluppi europei. Buongiorno intanto, onorevole Casini. Buongiorno, anzi la ringrazio, così ho sentito un pochino di rassegna stampa internazionale, che non fa mai male. Che non fa mai male. Infatti posso chiederle una, tanto per cominciare, un primo giudizio su queste due settimane del governo Monti. Noi siamo stati tra coloro che hanno detto molti media incalzano, un po' di politica incalza, però qui forse meglio aspettare di capire bene che cosa l'Europa fa o non fa, perché poi anche noi non possiamo pensare di fare, continuare a fare una manovra a settimana, cerchiamo di capire e cerchiamo di sparare il colpo giusto. Lei invece come la pensa? La penso esattamente in questo modo. Noi non possiamo correre il rischio di fare sacrifici inutili, e questo è un rischio che si corre se l'Europa non capisce che qui ormai siamo arrivati al punto di fare riforme strutturali, identitarie. Cioè, noi abbiamo fatto una cosa straordinaria in Europa. Abbiamo realizzato la moneta unica. È stata una cosa storica che ci ha posto come punto di riferimento di gran parte del mondo. Si va in giro per tanti paesi e tutti ti parlano dell'Europa, di questo miracolo della moneta unica, però la moneta unica deve essere sorretta da una fiscalità unica, da una riduzione di sovranità chiara da parte degli stati nell'indicazione della politica economica. Se no, in condizioni come queste, le contraddizioni prima o poi vengono al pettine. Né noi possiamo pensare, come lei ha detto, di far pagare i nostri debiti agli altri, perché i paesi più virtuosi, quelli in cui l'età pensionabile è allungata, in cui gli orari di lavoro sono più duri, in cui sostanzialmente il livello di vita media dei cittadini è più basso, non possono accettare di pagare con i loro sacrifici il costo del nostro stare al di sopra delle nostre possibilità. Per cui oggi siamo a un punto di non ritorno. L'Italia con Mario Monti sta finalmente intraprendendo la strada delle cose concrete, perché molti hanno detto il governo è in ritardo, ma insomma un governo che ieri ha fatto i sottosegretari e che lunedì presenterà una manovra che si annuncia importante, non è certo in ritardo, sta facendo le cose serie, ponderate, giuste, ma devo dire tutto questo rischia di essere inutile se l'Europa non prende atto che bisogna fare qualcosa di più. Peraltro oggi ci sono altre questioni che riguardano l'Italia sui giornali, perché mentre lei faceva la sua rassegna io mi facevo la mia. Uno dei problemi che vorrei evidenziare, così vi aiuto a fare la rassegna stampa, è le dichiarazioni su Repubblica di Vegas, che pone il problema serio di come l'autorità bancaria europea abbia chiesto alle banche di rispettare determinati parametri e le banche italiane rischiano fortemente di essere penalizzate per questo. E io credo che sia necessario che la Banca d'Italia esamini in modo approfondito la situazione, perché i criteri stabiliti sono effettivamente discutibili e sono penalizzanti nei confronti delle banche italiane, che non sono certamente meno virtuose delle banche situate in altre parti del continente. Dunque, non la voglio interrompere, solo per dire che su questo il presidente dell'ABI, Mussari, ha chiesto fin dall'indomani mattina, avendo appreso al Consiglio europeo l'ultimo al quale ha partecipato Silvio Berlusconi, esattamente che faceva parte del dispositivo approvato dal Consiglio europeo, questa norma del regolatore bancario europeo che non ha contabilizzato a prezzi di mercato gli assetti tossici di tipo 3 delle banche franco-tedesche, mentre invece ha disposto questo per i titoli di debito pubblico, il valore mark to market, e quindi per le banche italiane che non hanno titoli tossici greci eccetera, ma hanno molto debito pubblico italiano, questa è una specie di invito a dismettere il debito pubblico italiano, proprio mentre la BCE poi sostiene i nostri costi. Questo per far capire a chi è a casa. Ma lei è d'accordo sul fatto che quindi bisogna assolutamente raccogliere questo appello e fare in modo che Vegas, certamente. No, mi sembra che il discorso che ha fatto Vegas sia molto serio, ma è un discorso che le persone responsabili non possono non fare. Certamente, se vogliamo dare un messaggio rassicurante agli italiani, questo dovrebbe in qualche modo anche rasserenarci sul fatto che le banche italiane hanno usato la testa in questi anni, hanno evitato di riempirsi di titoli tossici, e certamente quello che hanno fatto in ordine all'acquisizione di titoli del debito pubblico italiano è stato anche giustamente per una pressione di carattere nazionale. È ovvio che siamo tutti sulla stessa barca e bisogna remare tutti nella stessa direzione, ma questi criteri a mio parere vanno rivisti. Oggi ormai è un nodo che sta venendo al pettine e che non può essere rimandato. Onorevole Casini, possiamo penalizzare le banche che, non dimentichiamo, devono erogare la liquidità, esatto, per le imprese, per chi va a chiedere un mutuo in banca eccetera, e sono il canale poi attraverso la quale la crisi del debito pubblico, dei rischi paese, siccome loro sono costrette a incorporare i costi maggiori nella loro provvista di capitale, la trasmettiamo poi all'economia reale, esatto, cioè appunto le famiglie e le imprese. Senta, una delle accuse classiche, dei rilievi critici che si sentono fin dall'inizio e vengono ribaditi nei confronti del governo di emergenza, è che si tratta con la formula dei tecnici di una specie di sospensione della democrazia, con delle venature anche largamente inaccettabili a danno della sovranità nazionale, i commissari, la Commissione europea, e il professor Monti si fa dettare il programma. Le chiedo qualche osservazione, e anche congiunto al fatto che in realtà poi noi eravamo stati buttati fuori dal tavolo europeo da parecchio tempo per il governo precedente, mentre invece adesso si è vista proprio la fotografia dei tre a Strasburgo, era che veniva automaticamente riammessa l'Italia. Non mi illudo, ma insomma esserci o non esserci un tavolo non è indifferente. Lei che dice? Ma io dico che bisogna essere seri. Allora, evitiamo la mitizzazione del governo Monti, perché è chiaro che qui non ci sono miti, ciascuno si controlla, si verifica con la realtà di tutti i giorni, e la realtà è molto difficile. A mio parere il governo è partito bene. Le consultazioni internazionali e il tavolo che si ritrova finalmente con la presenza dell'Italia accanto alla Francia e alla Germania non è un dato estetico, non è una photo opportunity, è qualcosa di più. L'Italia riprende il posto che gli spettava e lo riprende con l'autorevolezza di una persona come Monti, che a quel tavolo non va ad ascoltare o a far battute, va a concorrere seriamente alle decisioni, perché forse anche, diciamo la verità, tra Merkel e la Sarkozy e Monti, forse Monti è quello che di questi processi, di questa crisi economica capisce anche di più. Per ma cui, tant'è che gli ha detto anche, ragazzi, poi 10 anni fa, quando voi eravate voi a sfondare il tetto, non avete fatto la procedura di infrazione e avete contribuito alla perdita della credibilità. Ha anche fatto all'inizio della conferenza stampa questa battuta che la dice lunga sull'autorevolezza che si può permettere Monti. Dopodiché è chiaro, noi abbiamo perso 3 anni e mezzo, oggi la politica non è sospesa, la politica ha semplicemente fatto una scelta che è quella di fare un passo indietro per consentire all'Italia di evitare il baratro. Non bisogna vergognarsi di questa scelta. Io non parteciperò a incontri in futuro che non siano palesi, pubblici, perché è chiaro che oggi i partiti debbono essere fieri delle scelte che hanno fatto. Il sostenere il governo Monti, certo a me sarebbe piaciuta la grande coalizione tradizionale, quella tedesca, ma mi accontento così. Sostenere il governo Monti è una cosa di cui bisogna essere fieri. Parlo anche della prossima manovra e vorrei cogliere l'occasione di questa telefonata mattutina che lei mi fa. Noi non vogliamo nemmeno essere, diciamo così, preventivamente informati. Il governo ha una sua proposta, l'avrà lunedì mattina in Consiglio dei Ministri, la presenti in Parlamento e ciascuno si assumerà la responsabilità. Chi vuole continuare con la vecchia pratica della demagogia magari si opporrà a questi provvedimenti e sarà libero di farsi poi la sua propaganda elettorale, ma io credo che gli italiani oggi abbiano capito che questo tipo di propaganda porta poi il paese a fondo. Noi chiediamo una sola cosa a Monti: l'attenzione per le famiglie, perché da anni manca l'attenzione per le famiglie, da anni abbiamo avuto tutte queste promesse finte sul quoziente familiare che mai si sono verificate. Ora necessariamente ci vorrà una progressività, non è che dal mattino alla sera la famiglia potrà, però una linea indicatrice che vada nella direzione di un segnale alle famiglie, questo è quello che chiedeva Monti. Per il resto si assuma la responsabilità il governo di presentare la proposta in Parlamento. È inutile fare pantomime di finte consultazioni che non servono a nulla, perché oggi c'è un tavolo principale che è quello del Parlamento. Altro che ritiro della politica, assunzione di responsabilità della politica e dei politici. Chi voterà contro lo farà liberamente, seguendo una propria strada. Chi sosterrà come noi i provvedimenti di Monti vorrà dire che decide in questo momento drammatico per il paese di evitare la catastrofe italiana. Io ne sono fiero di questo. Non è che oggi leggo in qualche giornale dice ma questa maggioranza che si vergogna di essere tale. Io non mi vergogno affatto, sono fiero di aver concorso a una scelta che sta evitando all'Italia di andare a fondo ben più pesantemente, perché non si poteva continuare così. E credo, voglio darne atto, che Bersani da un lato e Alfano dall'altro si stiano dimostrando persone responsabili e serie, perché anche loro in qualche modo stanno facendo sacrifici per appoggiare questo governo e per realizzare queste convergenze. In particolare, voglio dire, tutti sanno che se si andava alle elezioni la sinistra le avrebbe vinte, perché in presenza di 3 schieramenti, il nostro di centro, Fini, Rutelli ed io al centro, a destra la Lega e il PDL, sicuramente il PD avrebbe vinto, però ha capito chiaramente che non sarebbe riuscito poi a governare una situazione difficile. Per cui oggi abbiamo fatto un passo indietro, ma con un orgoglio e una fierezza che ci deriva dal fatto che quando arrivano situazioni estreme i partiti e i politici in Italia capiscono. Questo è un periodo che non è meno rischioso di quanto abbiamo del periodo che abbiamo vissuto della solidarietà nazionale, quando c'è stato l'impegno contro il terrorismo. Lì erano momenti in cui si sparava per le strade, qui sono È un tipo di guerra diversa, ma non meno impegnativa. Senta, prima di andare in pubblicità, una domanda secca, perché questo sa bene che poi è quello che i cittadini, gli ascoltatori chiedono sempre. Poi ce l'è stato presidente della Camera, anche oltre che leader politico. E oggi si apprende della stretta decisa sui vitalizi Camera dei Deputati dopo quella del Senato, quindi passaggio al contributivo, e si aspettano i 60 anni, non più i 50, per avere il vitalizio. La domanda è, siccome lo sappiamo, lo sa anche lei, che ci sarà una nuova stretta sulle pensioni, a mio giudizio necessaria, mi ci batto per spiegarla da mesi e da anni, dicendo a tutti coloro che hanno maturato il diritto in questi anni dei trattamenti di anzianità, che devono capire che lavorare in più non significa toccare loro nessun diritto, significa contribuire tutti a un'equità generazionale, visto che con la riforma Dini abbiamo messo sulle spalle di chi non aveva quei 18 anni di contributo a 95 l'onere maggiore, e quindi si tratta di essere più compartecipi. Però ai politici tutti chiedevano e continuano a chiedere qualche cosa di significativamente diverso che semplicemente dire ci prendiamo a 60 anni invece che a 50, un assegno che rimarrà molto molto molto molto distante in termini di generosità da quello, in proporzione, non sto dicendo ugualmente, ma in proporzione a quello che si matura facendo un qualunque lavoro dirigenziale. E allora le chiedo, è possibile mai che su questo la politica non riesca proprio a capirlo? È stato un passo avanti, la decisione di ieri, ma perché non lo capisce? Allora, io scelgo una strada questa mattina, facciamo un patto. Scelgo la strada perché la sua trasmissione è molto sentita, ascoltata da persone che capiscono, perché chi vuole approfondire sente questa trasmissione, non da gente che vuole. Allora, io scelgo la strada più difficile. Io penso che ieri, prima cosa, giudizio su ieri, il presidente Fini e il presidente Schifani abbiano fatto una scelta importante. E questo va rivendicato a merito della politica, che ha capito. Oggi ho visto per la prima volta che tanti opinionisti questa riflessione l'hanno fatta sui giornali. Secondo punto, guardi, parlo da un angolo di visuale un po' particolare. Perché se ci fosse totalmente il sistema contributivo anche pregresso, a me va benissimo, personalmente non credo che ne avrei, proprio vista la mia lunga militanza parlamentare, dei danni, e comunque gli ascoltatori sanno che anche per via di situazioni personali, familiari, non ho il problema personale mio, dell'onorevole Casini, grazie al cielo, sono in una condizione privilegiata. Non guardiamo all'onorevole Casini, non guardiamo a Berlusconi, non guardiamo, cioè guardiamo al magari l'operaio che diventa parlamentare, o al libero professionista che diventa parlamentare, che deve dismettere il suo studio magari di cardiologo, di dentista o di avvocato, e qui c'è un problema in ordine al cosiddetto tempo pieno del parlamentare. Questo sì è un problema, perché chi viene eletto parlamentare deve fare il parlamentare, non lo può fare con una gamba e con l'altra fare altre cose. Ma è chiaro che ci sono condizioni di persone che lasciano anche il certo per l'incerto, perché il parlamentare, sì, c'è gente che ha fatto parlamentare lasciando la propria professione e dopo due anni ci sono state le elezioni anticipate e non è mai più tornato in Parlamento. Allora cerchiamo non di inseguire la demagogia, ma di inseguire la serietà. Credo che questo sistema previdenziale per i parlamentari fosse di estremo privilegio. C'è stato un sacrificio ieri per iniziativa dei presidenti di Camera e Senato, ce ne dovranno essere altri, benissimo, ce ne saranno altri, però cerchiamo di evitare di rincorrere la demagogia, perché con la demagogia sì, si può avere un applauso, ma poi non si risolvono i problemi del Paese. Invece una questione essenziale che le forze politiche debbono affrontare nelle prossime ore è il tema della riduzione dei parlamentari. Noi abbiamo 630 parlamentari alla Camera e più di 300 al Senato. È chiaro che è una sproporzione, cioè 1000 parlamentari in un sistema di bicameralismo perfetto. Anche qua non c'è un paese del mondo in cui Camera e Senato facciano gli stessi cose. Noi dobbiamo trasformare il Senato in Senato federale, ridurre i numeri dei parlamentari, ridurli in modo progressivo ma limpido, chiaro, anche qui dimezzare il numero dei parlamentari, tanto uno che spara dei titoli non gli costa niente, no, dimezziamolo, lasciamone 100, ma non esageriamo, però facciamo una riduzione significativa. Si può arrivare a fare una riduzione di un terzo dei parlamentari in progressione, magari progressivamente attraverso due legislature. Aboliamo le province, che ormai le possiamo abolire facilmente. In che modo? Aboliamole anche qui in progressione. Non è che possiamo fare una legge per cui da domani non esistono più le province, no. Progressivamente le province che arrivano in scadenza non vengono rinnovate e vengono attribuite a regioni e a comuni le competenze che attualmente svolgono le province. In questo modo è anche una cosa in progress che ci consente, se eventualmente ci sono problemi o errori particolari, di correggere in corso d'opera. Certo. Tutte queste sono iniziative che vanno fatte, secondo me, subito, e naturalmente in corrispondenza con i sacrifici che la gente dovrà fare. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo con Emanuele Casini su un punto, perché c'è un'altra accusa che viene rivolta, questa volta non è tanto esplicita ma è sottostante, insomma, alle polemiche politiche animate tanto da una parte che dall'altra delle due coalizioni maggioritarie contrapposte, a differenza del terzo polo, ed è l'accusa di chi dice attraverso il governo Monti in realtà il terzo polo è felice perché pensa di smontare il bipolarismo e di arrivare poi alla riforma elettorale. Quindi ripartiamo di qui, perché l'accusa, insomma, è i democristiani festeggiano perché poi c'è un disegno sottostante, per così dire. Ed eccoci tornati qua in studio in questo mercoledì 30 novembre, Sant'Andrea. Io do sempre un'occhiata al calendario liturgico, io auguro a tutti gli Andrea. Siamo con onorevole Pier Ferdinando Casini, il leader dell'UDC. Riperdiamo da questa accusa che un pochino turba i sonni, diciamo così, soprattutto nel centrodestra, penso, perché il centrodestra ha un problema, perché il centrodestra non ha potuto dare, tra l'altro, risposte all'Europa e alla sfiducia dei mercati. Ci ha messo nelle condizioni poco invidiabili di essere diventati un detonatore possibile della stessa permanenza in vita dell'euro. Perché? Perché c'era un problema tra PDL e Lega, è stata la Lega a dire no alle pensioni, tra le altre cose, gli interventi sulle pensioni di anzianità. C'è un problema ora che stanno PDL a sostegno, a una specie di, diciamo, tormentato sostegno del governo Monti, e la Lega all'opposizione, e c'è un problema evidente tra loro che può diventare più profondo nel tempo rispetto alla tenuta di alleanze amministrative in tutto il nord. E quindi di fronte a questo c'è un'accusa rivolta al terzo polo, a Casini, a Rutelli, a Fini, di pensare che il governo di emergenza sia poi un viatico per iniziare a occuparci di istituzioni, magari in nome anche dell'efficienza, come adesso l'onorevole Casini ci ha spiegato, per un ampio ritocco, revisione, sia pur graduale, dell'assetto istituzionale rivolto a renderla più efficiente e meno onerosa, ma alla fine per arrivare a una legge elettorale che smonti il premio di maggioranza, torni al proporzionale, abbatta il bipolarismo. Quanto c'è di vero in questa preoccupazione del centrodestra e anche della parte maggioritaria della sinistra, che però secondo me è un pochino meno preoccupata di questo che nel centrodestra? Per la legge elettorale mi avvalgo della facoltà di non rispondere, nel senso che c'è un referendum, vediamo se la Corte Costituzionale ne dichiara l'ammissibilità e poi se è ammissibile vedremo cosa fanno i cittadini. Per quanto riguarda la sua, tra virgolette, accusa, beh, è un'accusa su cui mi dichiaro colpevole, perché è chiaro che per uno come me, che ha sempre detto che il bipolarismo realizzato in Italia era uno scontro tra all'arma bianca, tra uomini primitivi da una parte e dall'altra, è molto difficile cambiare opinione quando i fatti hanno dimostrato che avevamo ragione, perché Prodi prima e Berlusconi dopo hanno gettato la spugna, avendo vinto il secondo con 100 deputati di maggioranza. Per cui qual è il problema? Che questo bipolarismo spinge a creare intese elettorali, grandi armate, a mettere assieme tutto e il contrario di tutto, ma poi è chiaro che questo si appalesa come una debolezza il giorno dopo le elezioni, perché veti e controveti spingono le coalizioni a non riuscire a governare. Cioè, più ampie sono le coalizioni, più impotenti sono a governare. Più ampie sono le maggioranze, più paralizzate sono nella capacità decisionale. Questo ormai è una cosa che si è vista. Dopodiché io non sono contrario in linea teorica al bipolarismo, alla democrazia dell'alternanza. Se lei pensa all'Italia, l'Italia è un paese in cui c'è stato sempre il bipolarismo tra Democrazia Cristiana e comunisti, nella Prima Repubblica, o una democrazia dell'alternanza, quando funziona bene, quella tedesca, quella inglese, è sempre un fatto positivo. Il problema vero è come si realizza questo, attraverso che processi elettorali. Io credo che noi l'abbiamo realizzato male. I fatti mi hanno dato ragione, vedo che la schiera di gente che la pensa così si aumenta, e poi ci sono altri problemi, che ad esempio bisogna consentire ai cittadini di scegliersi i propri parlamentari, non è possibile espropriarli di questi diritti, e tutto questo è anche una questione molto seria di rapporto tra la gente e la politica. Ma al di là del, diciamo, eventuali premi di maggioranza, eventuali proporzionali corretti, al di là di questo, lo vediamo dopo appunto la pronuncia della Corte, lei è disposto ancora a credere che sia stato positivo, che sia pure in maniera tortuosa, come sempre avviene in Italia, siamo arrivati per esempio all'indicazione diretta, sia pur senza cambiare la natura parlamentare della nostra forma di governo e senza cambiare la Costituzione, quindi il Parlamento resta poi titolare della sovranità e in condizione di emergenza, infatti vota un governo Monti e non vota il governo Berlusconi, ma lei continua a considerare positivo che siamo arrivati, sia pure in questa maniera impropria, a indicare il nome del Premier sulle liste quando gli elettori scelgono, oppure no? O crede che bisogna andare indietro anche rispetto a quello? Non c'è il nome del Premier sulle schede elettorali, questa è una delle tante mistificazioni costruite, diciamo così, anche in buona fede in questi anni. C'è l'indicazione del capo della coalizione, esatto, che noi abbiamo surrettiziamente trasformato in indicazione del Premier. Non c'è indicazione del Premier, e talmente vero che non c'è, perché se ci fosse Monti non poteva essere Presidente del Consiglio, l'ha appena detto lei. Cioè, vediamo un pochino in concreto, vogliamo aprire gli occhi, vedere cosa si è realizzato in queste ultime due legislature. Anche ai più ostinati cultori del bipolarismo verrà qualche dubbio nel vedere come l'abbiamo inverato nella realtà italiana. Io dico, poi capisco che gli intellettuali in particolare hanno un'idea, se la fanno, se la cucinano, non è che... E ci restano fedeli. No, ci restano fedeli sempre, eh. Può capitare che cade il mondo sulla loro idea, ma loro dicono che è giusta. Per cui io non voglio neanche discutere accademicamente su questo, mi limito a guardare fuori dalla finestra e vedere ciò che è capitato in Italia in queste ultime due legislature, e penso oggi a constatare che tanti che avevano delle perplessità sulle mie tesi alla fine hanno dovuto convergere. Insomma, non dimentichiamo, lei parla di terzo polo, nel terzo polo c'è un signore come Gianfranco Fini che ha creduto al PDL e alla speranza di un'area moderata costruita con quelle modalità. Poi ha dovuto prendere atto, quando è stato espulso dal PDL, che questa strada non c'era. La stessa cosa ha fatto Rutelli, che ha fondato il Partito Democratico. Allora, voglio dire, ci siamo trovati venendo da esperienze diverse. C'è chi a questo bipolarismo non ha mai creduto, il sottoscritto. C'è chi è andato a vedere le carte, ha giocato, si è seduto al tavolo e ha constatato che le carte erano truccate. A questo punto penso che dovremmo trovare una strada, ma non è la priorità del momento. Ecco, questo, su questo voglio essere chiaro, cioè la priorità del momento è l'economia, perché se l'economia fonda l'Italia c'è poco da discutere di legge elettorale. Allora, noi adesso abbiamo il minuto sulla informazione stradale, poi torniamo, e la domanda mia verte su Berlusconi, perché lei dice io non ci ho mai creduto, però per una fase poi aderì a un patto con Forza Italia e con il centrodestra, e la domanda è, in questo caso non sul rimpianto, perché lei è andato avanti, si è fatto contare, non ha cambiato idea, la domanda è su Berlusconi, perché nel rapporto con Berlusconi c'era in realtà, per tutti i leader che hanno fatto patti e poi li hanno dismessi cambiando idea con Berlusconi, ma è sempre stato lo snodo, l'unica cosa vera che contava, insomma, come sanno tutti gli osservatori e chi ha vissuto da vicino questa lunghissima fase, gli ultimi 17 anni della vita italiana. Allora la mia domanda è, siccome lei poi nei confronti di Berlusconi è sempre stato attento, non ha usato toni duri, aspri, Fini ne ha usati di tipo completamente diverso verso Berlusconi, persino Bossi quando ruppe all'inizio con Berlusconi gli disse delle cose irriferibili, lei usa un tono diverso. Allora la mia domanda è, ma con Silvio Berlusconi le cose come stanno e come potrebbero diventare nel tempo? Ma lei ci crede che è veramente chiuso il capitolo di Silvio Berlusconi, oppure no? E come la pensa, vorrei dire, umanamente? E mentre riparte The End of Doors in sottofondo, come ogni fine, ogni inizio trasmissione, ripartiamo dal giudizio di Pier Ferdinando Casini su Berlusconi. Come lo vede lei Berlusconi? Tutto, lei la domanda me l'ha detto, formulare precisa, perché se confondiamo gli aspetti umani, gli aspetti politici, ma con Berlusconi, ma con Berlusconi lo state, un po' di confusione. È sempre stato così con Berlusconi, purtroppo. Dunque, è pressoché ineliminabile. Anzitutto, Berlusconi con me ha sbagliato molte cose e ha sbagliato anche la previsione su quello che sarebbe successo alla sua uscita. Gli ultimi volte che gli ho parlato ho detto che prima se ne andava, prima sarebbe stato meglio per lui. Credo che i fatti dimostrano che non mi sbagliavo, che avevo ragione. Penso che Berlusconi oggi nel suo rapporto col paese sia più sereno di 2 settimane fa. E questa è la dimostrazione che la sua pervicacia, il suo attaccamento al potere non gli è servito. Se il giorno dopo l'elezione di Alfano alla segreteria del PDL avesse lasciato la presidenza del Consiglio a Gianni Letta o a qualcuno del genere, probabilmente oggi la storia italiana sarebbe stata diversa. Detto questo, Berlusconi umanamente a me non è riuscito ad essere antipatico neanche quando abbiamo litigato. È una persona con cui diciamo ho una certa simpatia personale. Anche quando abbiamo litigato non mi sono mai particolarmente arrabbiato con Berlusconi, anche perché i suoi difetti sono talmente palesi che non potevo far vedere, cioè non potevo dire che non me ne ero accorto, cioè che avesse una qualche tendenza ad esempio a confondere le acque e le carte, insomma non è che potevo dire ma che strano, insomma avendolo conosciuto lo sapevo, non è che me ne potevo poi dolere. Diciamo che i suoi difetti sono molto scoperti, per cui qualche bugia di troppo eccetera, tutto questo sono cose che le conoscevo. Detto questo, l'analisi politica su Berlusconi alla fine per me è un'analisi politica che è negativa, cioè sono i fatti che parlano, non è che la rivoluzione liberale in 20 anni non c'è stata. Io inizialmente ci ho creduto e ho pensato che probabilmente Berlusconi, di cui vedevo i limiti, i conflitti di interesse e tutto il resto, ma pensavo che il tempo li attenuasse e non li accentuasse. Guardi, allora le faccio per l'ultimo minuto. Io sono di quelli che dicono che il problema del fallimento del centrodestra, quello di Berlusconi, per chi come me crede nell'equilibrio a meno stat, meno spesa e meno tasse, e per chi come me voleva la riforma della giustizia ordinamentale non su fatti personali, questo fallimento per anni mi metterà in condizione di far sembrare i miei argomenti ridicoli dopo quello che è successo. Lei in realtà pensa che ci arriveremo un giorno a riequilibrare per esempio nella giustizia, a far meno spesa e meno tasse, oppure i liberali devono cambiare? E voglio fare 2 osservazioni rapidissime. La giustizia, credo che il ministro Severino dica ogni giorno delle cose ragionevoli. Noi come Terzo Polo chiederemo tra breve, forse anche nella giornata di oggi, un incontro all'Associazione Nazionale Magistrati, perché vogliamo rincominciare a parlare di riforma della giustizia in modo naturalmente non vendicativo e non punitivo verso alcuno, ma ponendo le questioni all'attenzione, perché le questioni c'erano, andavano risolte e si è perso del tempo. Per quanto riguarda il discorso Berlusconi-Casini che facevamo prima, voglio poi dire una cosa, perché devo fare anche un atto di umiltà. Io ho sbagliato, cioè nel momento in cui dico che è la storia che darà un giudizio di un certo tipo del governo Berlusconi, dei 20 anni di Berlusconi, devo riconoscere che ho sbagliato a pensare che Berlusconi, Forza Italia, avrebbe avuto un percorso di un tipo, poiché in politica quando si sbaglia bisogna riconoscerlo, l'ho detto altre volte ma lo ripeto oggi, ho sbagliato io a credere che l'esperienza di Berlusconi avrebbe avuto un epilogo diverso da quello che ha avuto. Perfetto, e su questa ammissione sincera di Ferdinando Casini chiudiamo questo incontro di oggi, perché entro 15 secondi io devo passare la linea. Dico solo al popolo in ascolto: non temete, io penso che le idee di chi la pensa come me, cioè di uno Stato più snello, più efficiente, con meno tasse per più crescita, con una giustizia meno invadente ma per tutti uguale, questo sopravviverà alle loro cazzate. Non, lo sdegno non se n'è andato, ma non ci facciamo travolgere. Intanto, grazie per Ferdinando Casini, appuntamento Radio a 24. Domani. 9 in punto.